Bieber Special, mercoledì 14 novembre. Mattina durissima per il sottoscritto. Fortunatamente i miei amici Led Zeppelin mi hanno dato la carica con la loro rock and roll. E se non bastasse, arrivano anche i Black Crowes, Hard to Handle. So mama, I'm sure all the hand and I just around. And mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Mama, I'm sure all the hand and I'm just around. So mama, I'm sure all the hand and I just around. FM. A carved oak table tells a tale of times when kings and queens sipped wine from goblets gold. The brave would lead their ladies from out the room to arms cool. A time of valor and legends born. A time when honor meant much more to a man than life. And the days you only strive to tell right from wrong. Through time. dusty table, musty smells, tarnished silver lies discarded upon the floor. Only feeble light descends through a film of gray that scars the panes. Gone the carving and those who left their mark. Gone the kings and queens, now only the rats hold sway. And the weak must die according to nature's law, as old as they. Why can we never be sure till we die? All I've killed for an answer. Genesis, Timetable. Oh, vi piacerebbe sapere come sono nati i Traveling Wilburys, il supergruppo composto da George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty e Roy Orbison? Pensate che sia stata una mossa progettata a tavolino da un genio del marketing? Nah, tutto è nato da un lato B da registrare in poche ore. Ne volete sapere di più? Allora appuntamento a dopo Wonderful Tonight di Eric Slowhand Clapton. Wondering what clothes to wear. takes me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Eric Slow Hand Clapton, a Lurly Bear Special, ma non è di lui che vi voglio parlare, ma della nascita dei Traveling Wilburys, uno dei più incredibili supergruppi mai esistiti. Nel 1988 George Harrison era alle prese con la promozione dell'album Cloud Nine, che inaspettatamente stava scalando in maniera piuttosto veloce le classifiche di vendita. Passando da Los Angeles, la Warner Bros., la sua etichetta, gli chiese di registrare un pezzo inedito da utilizzare come extra track sul singolo a 12 pollici di Got My Mind Set on You per il mercato europeo. C'era pochissimo tempo a disposizione e George Harrison pensò che l'unica cosa che si potesse fare era chiamare il suo vecchio amico e produttore Jeff Lynne, già leader dell'Electric Light Orchestra, e chiedergli se conosceva qualche studio adatto a registrare la cosa. Ma i grandi studi erano tutti prenotati da tempo e allora Jeff suggerisce a George di provare a chiedere a Bob Dylan l'utilizzo del suo studio personale costruito all'interno della sua casa di Point Dume. Visto che si trattava di George Harrison, Dylan accettò. Sulla strada per lo studio, George si fermò a casa di Tom Petty per chiedergli in prestito una chitarra. E sapendo che Dylan e Paddy erano grandi amici, decise di chiedere a Tom di unirsi a lui e a Jeff. A questo punto Jeff disse: «Ehi, perché non facciamo anche una telefonata a Roy Orbison? Sono certo che anche lui andrebbe di fare qualche cosa con noi». Beh, la gang si ritrovò nello studio come se fossero dei vecchi amici a una cena. Qualcuno chiese: «Ehi, ma allora cosa registriamo?» George Harrison, guardando l'adesivo appiccicato ad una custodia per chitarra, disse: facciamo un pezzo intitolato Handle with Care, maneggiare con cura. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Situations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and got somebody to lean me questa cosa dei Traveling Wilburys fa veramente impazzire, ma ci pensate, George Harrison telefona a Jeff Lynne e poi vanno nello studio di Bob Dylan e poi per strada trovano Tom Petty e poi telefonano a Roy Orbison e lui accetta. Queste sono le storie più belle del rock and roll e infatti i dischi dei Traveling Wilburys, che sono stati recentemente ristampati, sono qualcosa di veramente incredibile. Ragazzi, con le chiacchiere siamo arrivati in fondo a questo Early Bird Special. Al vecchio Chuck Bird non rimane far altro che ringraziarvi per l'ascolto e lasciarvi con i restanti programmi dall'etere del Rock FM. Vi lascio con Pane, Burro e Rock and Roll con il DJ Ariele e Freak Anthony. Noi ci risentiamo domani mattina, giovedì 15 novembre, sempre dalle 6 alle 7. Aloha!